Ospiti ricchi e poveri. Un discepolo era in tirocinio da un maestro sufi. Appena gli amici lo vennero a sapere, si precipitarono a casa sua per tempestarlo di domande. «Quegli sciocchi mi credono detentore di una saggezza sovrumana», confessò l'uomo al suo maestro. «E non accennano a lasciare la mia casa. Cosa devo fare?» Il sufi rispose: adotta questa semplice linea di condotta. Ai tuoi amici poveri presta del denaro, cosicché si sentano obbligati a non tornare, finché non lo restituiscono. Ai ricchi, invece, chiedi tu dei soldi in prestito, ogni volta che ti vengono a trovare. Vedrai, ti ritroverai ben presto solo e avrai il tempo di occuparti delle cose dello spirito. Un sufi viene derubato. Un delinquente decise di rapinare un sufi. Durante la notte entrò in casa sua mentre il sufi era assente. Ma dopo aver frugato ovunque, il furfante non trovò oggetti di valore. «Quest'uomo non ha niente!» gridò contrariato. Nello stesso istante, il sufi rincasò e si imbatté nell'intruso. Il delinquente tentò la fuga per evitare la denuncia, ma il sufi lo rincorse e alla fine riuscì a raggiungerlo. «Vuoi forse aggredirmi? Non conosci la mia forza? E poi, non ti ho preso niente!» «È proprio questo il punto», replicò il sufi. «Voglio offrirti la mia stuoia da letto per non farti andar via deluso a mani vuote. Ti prego, accettala. È tutto quel che ho». Un dialogo tra sufi. Due sufi si incontrarono dopo lungo tempo. «In quale stadio del sentiero sei arrivato?» «Di recente, purtroppo, non ho coltivato alcuna intuizione importante. La mia maturazione spirituale si è interrotta». «Come mai? Mi avevano detto che eri riuscito a vincere tutti i desideri». «In realtà, ce n'è ancora uno a turbarmi il cuore». «E quale?» «Il desiderio del non desiderare. Se non fosse per questo residuo della Brahma, credo proprio che attingerei l'Eterno». Un po' d'oro per gli asceti. «Se mi verrà concessa una grazia, donerò un'ingente somma agli asceti del paese», giurò il re solennemente. Qualche tempo dopo, la grazia gli fu concessa. «Maestà, ora dovete mantenere la promessa», disse il ciambellano. Il re convocò il più fedele dei suoi servi e disse: «Dona quest'oro agli asceti del paese». L'uomo si allontanò con un sacco pieno di monete e solo a notte fonda ritornò al palazzo reale. Ma il sacco era ancora pieno. «Perché mi hai disubbidito?» gridò il re infuriato. «Ti punirò severamente!» «Non prendertela, sire, ti spiegherò tutto», disse il servo. E aggiunse, sicuro di sé: «Sono andato in cerca di asceti per tutto il paese, ma dopo tutto non potevo trasgredire i tuoi ordini. Che dovevo fare? Se qualcuno avesse accettato l'oro, avrebbe dimostrato di non essere un asceta. Così non ho potuto dar niente a nessuno. Dovevo forse beneficiare gli impostori?» Il re pensò che l'uomo avesse ragione e rinunciò a punirlo. Uno schiavo garbato. Luqman era proprio un uomo educato. Un giorno qualcuno gli domandò: «Come hai fatto, tu, un umile schiavo, a coltivare le buone maniere?» Luqman rispose: «Grazie a un certo tipo di maestri. Osservando il comportamento dei maleducati, ho cercato di non imitarli. E credimi, non potevo ricevere un insegnamento più efficace». Fino a questo punto, nella piazza del mercato, un erudito, che la gente reputava molto saggio, fu picchiato da uno sciocco. Un derviscio si trovò ad assistere alla scena e osservò. Ciò dimostra che quest'uomo non è affatto un maestro dello spirito. Se lo fosse, non sarebbe entrato in confidenza con lo sciocco, al punto di farsi picchiare. Una contrarietà peggiore. Padre, ho perso le monete d'oro che mi avevi affidato, disse il figlio del mercante. Non importa, replicò il mercante. Cerca piuttosto di non farlo sapere in giro. Perché? Domandò il giovane stupito. Perché puoi rimediare alla perdita dell'oro, disse il mercante, ma non al sarcasmo della gente. Svantaggi dell'insegnamento. Sei proprio uno sciocco, figlio mio. Dovrò affidarti al più bravo precettore del regno, disse il nobiluomo severamente. Qualche giorno dopo, un esperto insegnante cominciò a istruire il giovane idiota. Tuttavia, nonostante gli sforzi, non se ne veniva a capo. Il ragazzo non imparava nulla. Alla fine il precettore dichiarò al nobiluomo: mi dispiace, ci rinuncio. Che tuo figlio non faccia progressi è già abbastanza frustrante, ma non riesco a sopportare che nel tentativo di istruirlo mi stia instupidendo anch'io. Da un piccolo torto. Un re era noto per il suo senso di giustizia. Una volta, dopo una battuta di caccia, le guardie del suo seguito si procurarono una piccola quantità di sale al villaggio più vicino. Il re lo venne a sapere e disse: mi auguro che abbiate provveduto al pagamento della merce. Una delle guardie rispose: ma no, sire, era solo un po' di sale e in ogni caso dovete pagare, ribatté il sovrano. Dopo una breve pausa, aggiunse: lo sapete come sono cominciate le ingiustizie al mondo? Da un torto minimo, insignificante. Eppure quel piccolo evento produsse molte calamità e ciascuno vi contribuì con le proprie scorrettezze. Capite ora perché ci tengo a farvi saldare il conto. Amici e nemici. Un discepolo domandò al maestro Sufi: puoi insegnarmi qualcosa sugli amici e i nemici? L'uomo rifletté un attimo, poi replicò: se hai un amico, non aprirgli il tuo cuore. Infatti, un giorno potrebbe esserti nemico. Se hai un nemico, non cercare di ferirlo. Infatti, un giorno potrebbe esserti amico. E se trovi un amico che non ti sarà mai nemico, evita ugualmente di dischiudergli il tuo cuore. Perché? Perché costui potrebbe rivelare i tuoi segreti ad altri amici, e questi ad altri ancora. Il decimo colpo. Yusuf era diventato il lottatore più forte del regno. Conosceva a menadito 10 colpi fatali per sconfiggere qualsiasi avversario. Tra i suoi numerosi discepoli ne aveva uno cui era particolarmente affezionato. «Insegnami la serie di colpi fatali per sconfiggere qualsiasi avversario», disse il prediletto, un giovane aitante e muscoloso. Yusuf esaudì parzialmente la richiesta, rivelandogli 9 colpi della serie. Nel frattempo il discepolo si insuperbì sempre più, al punto di dichiarare: «Sono molto più forte del maestro e potrei batterlo senza difficoltà». Il re venne a conoscenza delle sue vanterie e decise di metterlo alla prova. «Voglio proprio vedere se il giovanotto ha ragione. Finora è Yusuf il più forte lottatore del regno». I due furono convocati per una lotta senza esclusione di colpi. «Battetevi lealmente e che vinca il migliore», disse il re. I due avversari si guardarono a lungo negli occhi prima di iniziare lo scontro. In effetti, la muscolatura dell'allievo era molto più sviluppata di quella del maestro. All'apparenza, il giovane avrebbe dovuto avere la meglio. Il combattimento iniziò. Yusuf si trovò subito in difficoltà nel parare i colpi che lui stesso aveva insegnato all'avversario. Ma quando la lotta volse alla conclusione, giocò l'ultima carta, ricorrendo al decimo colpo della serie. Il discepolo gli si scagliò contro, con tutta la forza. Ma Yusuf si fece da parte e il giovane, nell'impeto dello slancio, stramazzò a terra. Il decimo colpo consisteva nello sfruttare la forza dell'avversario per ritorcergliela contro. Con quanta più volenza quello colpiva, tanto più danneggiava se stesso. Il maestro disse allo sconfitto: «Ti ho insegnato 9 colpi, tutti basati sull'azione. L'ultimo, quello della non azione, l'ho tenuto per me. Solo così sono riuscito a vincere». Comodità. Un pellegrino era appena tornato dalla Mecca. Fu interrogato da un sufi: «Com'è andata?» L'uomo replicò: «Molto bene. L'alloggio era confortevole e il cibo genuino». «Non mi riferivo a questo», disse il sufi. «Allora, la compagnia era piacevole e il clima molto mite. Era questo che ti interessava, no?» chiese il pellegrino. «In un certo senso», rispose il sufi, rassegnato. La donna più bella. A volte le convinzioni sono tanto deboli da venire estirpate facilmente. Un sedicente sufi andò alla sorgente a rifornirsi d'acqua e vi trovò una bellissima ragazza. Per l'occasione non poté trattenersi da questa dichiarazione. «Sei stupenda! Accettami come sposo!» «Ti piaccio veramente?» chiese la fanciulla. «Ma certo! Sei la donna più bella che abbia mai visto!» rispose il sufi. «In tal caso, visto che ami la bellezza, sappi che alle tue spalle sta arrivando una fanciulla ancora più affascinante. In confronto a lei, io appaio persino sgradevole!» Il sufi si voltò di scatto, ma non vide nessuno. La ragazza disse: «Mi ami tanto che il solo pensiero di una donna più bella basta farti girare la testa». E dopo queste parole svanì nel nulla, da dove era venuta. Parlare e tacere. Un sufi era particolarmente versato nell'arte della retorica. Così un giorno gli dissero: «Sei molto abile nel parlare e sei anche un santo. Ma quando imparerai a tacere?» Si narra che da quella volta il sufi non parlò più fino alla morte. Lettura del pensiero. Un maestro sufi stava recandosi al fiume insieme a un peccatore e a un predicatore. Egli aveva la facoltà di leggere nella mente. Il peccatore pensava: «Potrà Dio aver pietà di me e perdonare le mie colpe?» Il predicatore pensava: «L'uomo accanto a me è un peccatore. Perché mai Dio gli permette di seguire un sufi? Non dovrei, soltanto io, condurre il santo in riva al fiume?» Nei pressi della meta, il sufi udì la voce dell'Eterno. «Ho preso la mia decisione», diceva. «Accoglierò il peccatore in cielo per respingere l'altro». Le buone intenzioni. Un maestro sufi domandò ai suoi discepoli: «Se qualcuno si addormentasse con le parti intime scoperte, che cosa fareste?» «Provvederemmo subito a coprirgliele», replicò un discepolo. «Attenti alle buone intenzioni», disse il sufi. «Siete sicuri che agireste così?» E dopo una pausa aggiunse: «Quando qualcuno viene calunniato e voi restate ad ascoltare, gettate acqua sul bagnato. In tal modo voi stessi contribuite a screditarlo». Istruzioni. All'alba dei tempi Dio istruì i Sufi. Nel rapportarvi agli uomini, imitate la terra e lasciatevi calpestare da tutti in segno di abnegazione. Oppure imitate l'acqua e, fluendo senza posa, concedete agli altri ogni getto del vostro amore. Oppure imitate il sole e donate la vostra luce al mondo intero, senza preferenze. L'uomo della caverna. Un uomo dormiva in una caverna, ma un sufi andò a svegliarlo, esortandolo a tornare tra i suoi simili. Non ti vergogni di sprecare tempo a oziare? Perché sei così negligente? Domandò il sufi. Il solitario rispose: cos'altro dovrei fare? Non c'è nulla al mondo che possa lusingarmi. Gloria, successo e ricchezza non hanno più senso per me. Lascio tutto, volentieri, a chi non è ancora sazio di apparenze. Preferisco indugiare nell'oscurità, con la luce del mio spirito. Poi, dopo una breve pausa, aggiunse: dammi un unico motivo per tornare alla sfera materiale, e lo farò. Allora il sufi ne capì lo stato d'animo e ammise: da te ho molto da imparare. La prova. Che devo fare per farmi accettare come adepto? Chiese il giovane a un maestro sufi. Soltanto rispondere a una domanda, replicò l'altro. Poi aggiunse: quando avrai fornito la risposta giusta, dovrai attendere 3 anni prima di essere accolto nella mia cerchia. Il giovane accettò subito la prova. La domanda era questa: alla morte del corpo, dove se ne vanno le anime? Il novizio non si diede pace e trascorse molte notti insonni a meditare sul problema. Alla fine, dopo lunghe riflessioni, riuscì a risolverlo. Quindi si affrettò a riferire la risposta al maestro. «Hai superato la prova», dichiarò il sufi. «Tra 1000 giorni e 1 avrai un posto tra i miei adepti». Tuttavia, al momento del commiato, nella mente del giovane si insinuò un dubbio. «Dimmi, maestro, con una risposta sbagliata, cosa sarebbe successo?» Il sufi fece una lunga pausa. Poi replicò: «Non so se mi capirai, comunque te lo dico ugualmente. In quel caso, ti avrei accolto subito nella mia schiera, senza farti attendere un istante». La calma del demonio. Due demoni si recarono nel mondo degli uomini per una ricognizione. All'improvviso si imbatterono in un giovane intento alla meditazione e gli lessero nel pensiero. «È finita!» disse uno dei due. «Dovevamo stare più attenti. Ora questo ragazzo ha colto una parte della verità». «Non importa!» rispose l'altro. «Costui fonderà una scuola o un'istituzione e ci penseranno i suoi discepoli a invalidarne la scoperta». Dopo una breve pausa, aggiunse: «Come vedi, non c'è da preoccuparsi». La formula magica. Un giorno, un maestro sufi stava passeggiando in riva al fiume. All'improvviso, da una vicina imbarcazione, giunse una voce d'uomo intenta a salmodiare una formula magica. «Che sciocco!» pensò il sufi. «Non sa neanche recitarla bene. Dovrò dargli le giuste indicazioni». Allora il maestro noleggiò una barca e si avvicinò a quell'uomo. «Sono venuto a dirti che ti stai sbagliando. Quelle sillabe si pronunciano così». Pazientemente, il sufi fornì tutte le istruzioni. «Oh, ti ringrazio tanto, sei molto gentile», rispose l'altro. Sulla via del ritorno, il maestro pensò: «Il mio intervento è stato necessario. Certo, è solo una formula, ma ho sentito dire che chi la recita correttamente riesce persino a camminare sull'acqua». «Naturalmente è una sciocchezza. Quella formula, però, ha pur sempre un grande valore spirituale. Per questo è importante dirla bene. Ma a un certo punto le riflessioni del maestro furono interrotte bruscamente. In effetti, l'uomo della barca stava nuovamente distorcendo la pronuncia. Certa gente non imparerà mai, pensò il Sufi. È inutile perderci tempo. Qualche istante dopo, però, udendo uno strano rumore, fu costretto a voltarsi. E che grande stupore si impadronì di lui nel vedere il meditante avvicinarglisi, camminando sulle acque. Scusami, maestro, disse l'uomo gentilmente, in perfetto equilibrio tra le onde. Ti dispiace ripetere la pronuncia esatta? Non riesco proprio a ricordarla. Un abito che dona. Alcuni adepti del sufismo si recarono dallo scalzo, famoso per la sua saggezza. I loro abiti erano logori. L'uomo disse: «Fratelli, vi prego, non vestite così, altrimenti la gente vi riconoscerà subito e sarà fuorviata». Pochi istanti dopo, il silenzio imbarazzante fu interrotto dalle grida di un giovane. «Noi invece continueremo a portare queste vesti rattoppate e lo faremo finché ci sarà ancora qualcuno che non la pensa come noi, finché tutti gli esseri umani non aderiranno al sufismo». Dopo un attimo di riflessione, lo scalzo replicò: «Hai proprio ragione. A chi la pensa come te, questo è un abito che dona».